si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, 7:37 minuti, inizia una nuova diretta di Si può fare, il buongiorno del weekend su Radio 24. Cerchiamo di stare dietro ai fatti, stiamo in queste ore, ma direi in questi giorni, continuamente riaggiornando la programmazione per tenere dietro alle notizie. Questa volta, nella serata di ieri, lo sapete, è arrivato il colpo di Stato in Turchia, fallito, sembrerebbe un fallito colpo di Stato, perché poi proprio nella notte tutto è cambiato, lo scenario, il presidente Erdogan è tornato a farsi vedere con una conferenza stampa a Istanbul, nella quale ha detto, insomma, sostanzialmente tutto è tornato al suo posto, i militari hanno fallito, ma insomma cercheremo di aggiornarvi minuto per minuto, oltre che nei giornali radio, anche all'interno di questa rassegna stampa e poi più avanti del programma di Si può fare. Cercheremo di collegarci anche con la Turchia se le linee reggono. Ma sembrerebbe di sì. I giornali di oggi, come sempre con una rassegna stampa, iniziamo il sabato mattina andando velocemente verso il giornale radio delle 8. I giornali sono fermi alla parola caos, soprattutto perché insomma, quando sono andati in stampa ieri sera, il golpe era iniziato da alcune ore e c'era l'appello di Erdogan: resistete, ma sostanzialmente era tutto appeso a un filo. E quindi titoli: è golpe, la Turchia nel caos, scrive il Corriere, tentativo dei militari, Erdogan parla via iPhone, resistete, il governo che annuncia colpo di Stato già fallito. Quindi vedete che già si annuncia il possibile fallimento di questo colpo di Stato. Repubblica scrive: colpo di Stato, Turchia nel caos, Erdogan resiste. Sono queste le parole, golpe, scrive il Manifesto, ma sono le foto anche, soprattutto, che danno diversi, come dire, stralci, diversi punti di vista di questa vicenda. Il Sole 24 Ore, che scrive: colpo di Stato in Turchia, i militari, abbiamo preso il potere, riportano la foto di alcuni militari e di alcuni manifestanti con la bandiera turca che si trovano in piazza Taksim a Istanbul, una piazza simbolo perché è una piazza, la piazza della zona più occidentale della città, la piazza dove ci sono le strade del divertimento, la piazza dove si radunano anche le grandi manifestazioni. E questa è una prima, è un primo flash. Poi c'è la foto sulla stampa: i militari bloccano l'accesso al ponte del Bosforo a Istanbul. E in effetti sono queste le immagini che abbiamo visto subito ieri sera. I militari che presidiavano in particolare il ponte sul Bosforo, uno degli snodi strategici della città di Istanbul. Poi ancora le cose cominciano a cambiare, e allora la diretta via FaceTime di Erdogan, che trasmessa dalla CNN turca, nella quale si vede il presidente Erdogan con il suo faccione nel telefonino, che fa un appello a resistere, resistete, invita il popolo a resistere a questo tentativo dei militari di prendere il potere. Sembra l'appello di un disperato, di uno che ormai ha perso, di uno sconfitto. Cominciano a circolare le notizie di un volo che da Bodrum, lungo la costa, città turistica, abbandona la Turchia al suo destino. Però questo appello evidentemente sortisce un effetto, ed è l'effetto che poi cambia completamente lo scacchiere, lo scenario, insomma lo scacchiere anche, sì, perché effettivamente la gente va in piazza. Forse ci sarebbe andata indipendentemente anche da questo appello di Erdogan, un presidente, un premier e poi un presidente criticato, dittatoriale, uno che vieta i social network, uno che chiude i giornali dell'opposizione, uno che mette i giornalisti in prigione. Però un presidente anche amato per il suo passato, per la sua storia, è stato in galera per la sua fede religiosa, ha aiutato questo paese a crescere economicamente, un paese che ancora cresce velocemente dal punto di vista economico. E insomma, l'appello di Erdogan va a buon fine e allora la gente si riversa per strada. Altra foto su Repubblica, un carro armato con davanti un uomo, una persona, un civile, un uomo in jeans e scarpe da tennis sdraiato che si mette di mezzo, e sono le immagini che abbiamo visto poche altre volte nel mondo e ci hanno ovviamente sempre colpito. Il carro armato che l'esercito che si ferma di fronte alla protesta civile. Poi gli aggiornamenti che tra poco tra l'altro vi daremo con la redazione, sparatorie in giro per strada e il fallimento del colpo di Stato. Qualche commentatore, intanto può essere interessante, abbiamo detto la diretta di Erdogan via FaceTime, cioè questa applicazione che ti consente di parlare sui social network in diretta, è la nemesi di Erdogan, che ha vietato spesso i social network e questa volta invece gli è toccato fare il suo appello proprio così. Come in ogni, scrive il Corriere, come in ogni colpo di Stato che si rispetti, da decenni a questa parte uno dei primi obiettivi dei golpisti è stata la conquista della TV statale, dalla cui sede hanno lanciato la dichiarazione di presa del potere e proclamazione del coprifuoco e della legge marziale. Questa volta rispetto al passato però i militari turchi hanno voluto silenziare anche i più moderni canali di informazione. Eccoci qua, i social media. Alle 22:50 YouTube, Facebook e Twitter sono stati bloccati. Impossibile anche collegarsi dall'estero ai principali siti di informazione come il quotidiano nazionale Hurriyet. Quindi non cambia la musica, cioè colpo di Stato, social network chiusi, così come piace fare anche a Erdogan, questa è una costante. Poi a sorpresa in tarda serata ecco Erdogan che sceglie FaceTime per rifarsi vivo, collegandosi grazie allo smartphone di una giornalista della CNN. Sono ancora il presidente, resistete. E vabbè, insomma, poi prosegue il Corriere: in Turchia non è la prima volta che i social media vengono censurati, a differenza di paesi come la Cina o la Corea del Nord, dove la censura 2.0 è sistematica. Finora il governo Erdogan aveva imposto il bavaglio solo in circostanze specifiche, in occasione di attentati. Già ogni volta che c'è un attentato Erdogan ha chiuso i social network, che però normalmente invece sono aperti, sono liberi, a differenza di altri paesi come appunto ricordava il Corriere, la Cina e la Corea del Nord. Allora facciamolo un primo aggiornamento dalla redazione per capire qual è la situazione al momento. Abbiamo parlato nella notte di sparatorie, l'appello di Erdogan, resistete, poi la mattina un altro appello che dice il colpo di Stato è finito. Maria Luisa Pezzali, quali sono le ultime notizie? Buongiorno. Sì, le ultime notizie, buongiorno Alessio, un saluto agli ascoltatori, sono che il paese si è risvegliato in un clima surreale, sotto shock dopo il violento capovolgimento della situazione in poche ore, come hai detto appunto, con il colpo di Stato dei militari fallito. La polizia, fedele al presidente sultano islamico, ha arrestato i militari golpisti, al momento sono oltre 750 quelli in manette, gli stessi che poche ore prima avevano dichiarato vittoria. Il governo turco ha sollevato dal loro incarico 29 colonnelli e 5 generali, viene fatto sapere almeno uno dei generali golpisti sarebbe stato ucciso. La situazione però, dobbiamo dirlo, è ancora lontana dalla normalità. Sul terreno si contano al momento 60 vittime negli scontri, 17 i poliziotti uccisi nell'assalto compiuto dai militari contro la sede centrale della sicurezza ad Ankara. Si sono viste vere e proprie scene di guerra civile, con l'esercito che sparava sulla folla, sui ponti, sul Bosforo. Poco dopo le 3 di questa notte, appunto, l'atterraggio di Erdogan all'aeroporto Ataturk di Istanbul. Erdogan, che durante il golpe aveva chiesto ai cittadini via FaceTime, il programma di videochiamata di Apple, di scendere in piazza. Erdogan, che in fuga su un aereo privato avrebbe chiesto asilo negato alla Germania, forse anche alla Gran Bretagna. Il golpe è stato sventato, ha poi annunciato, parlando prima in conferenza stampa, poi alla folla, promettendo appunto che i congiurati pagheranno duramente per aver attentato all'unità e alla sovranità nazionale. Per il momento è tutto, a te Alessio. Grazie Maria Luisa Pezzali, traffico, torniamo tra un secondo. Più narrate. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare. E allora continuiamo a dare un'occhiata ai giornali di oggi, una rassegna stampa che è per forza di cose, per quanto riguarda la notizia principale del tentato golpe, fallito golpe in Turchia, è incompleta, ma abbiamo appena fatto un aggiornamento dalla redazione. C'è un'altra notizia che è appena giunta e che testimonia che la situazione sia ancora fluida, tutto sommato, in quel paese. Il presidente Erdogan, che stamattina all'aeroporto di Istanbul ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha dichiarato fallito il golpe dei militari, però adesso manda un SMS per invitare i turchi a scendere in strada contro i militari golpisti, ad inviarlo, scrive Lanza, pochi minuti fa ai cellulari registrati in Turchia è stato un numero identificato con quello del presidente Recep Tayyip Erdogan. Nel messaggio si condannano le azioni dei golpisti ad Ankara e a Istanbul, definite come una sollevazione contro il popolo, come negli anni 70, si invita il popolo turco con onore a difendere la democrazia e la pace, e alla fine di questo SMS la firma appunto Recep Tayyip Erdogan. E allora ancora dai giornali di oggi, il rapporto per esempio tra Erdogan stesso e i militari, perché qualcuno all'immediato scoppiare di questo tentato golpe ha evocato i golpe dei militari del passato, che sono stati sospensioni sì della democrazia, ma al fine di rendere un paese come la Turchia più laico, più democratico, per riportare una sorta di ordine superiore che in alcuni momenti si era perso. Ma insomma, il golpe è sempre una sospensione della democrazia. Comunque il ruolo dei militari in passato in Turchia è stato di questo tipo. Poi con l'arrivo di Erdogan tutto è cambiato, scrive Alberto Negri sul Sole 24 Ore di oggi. Il predominio dei militari, Erdogan l'ha affrontato emarginando progressivamente i generali dalla vita pubblica e facendo anche leva su scandali come il caso Ergenekon, non so se ho pronunciato correttamente, che profilava un colpo di stato delle stellette, cioè dei generali, contro appunto il nuovo governo islamico e conservatore. Erdogan allora mise alla sbarra nei tribunali i generali che poi hanno progettato la vendetta, cioè in qualche modo si prefigura, nelle parole di Alberto Negri, anche una vendetta da parte dei generali che sono stati appunto progressivamente isolati, emarginati, gli è stato tolto potere. Erdogan ha sostanzialmente fatto terra bruciata attorno a sé in questi anni di tanti poteri. La magistratura ha ignorato le sentenze della magistratura, per esempio anche sulla faraonica sede della presidenza che ha fatto costruire a Istanbul, oppure appunto ha messo i militari in una situazione di minor potere, di minore influenza, così come anche dal punto di vista politico, e oggi ce lo ricorda per esempio il Corriere, ha fatto a meno dei suoi tradizionali alleati, l'ex premier Davutoglu, che si è dimesso poco tempo fa perché per una serie di divergenze, fratture insanabili ormai con il presidente Erdogan e la sua deriva autoritaria. Il nuovo premier Binali il Dirim è il successore di Davutoglu nella carica del primo ministro a partire dal 24 maggio 2016, 61 anni, considerato un fedelissimo di Erdogan, ricopre anche la carica di leader del partito AKP, il partito islamista di Erdogan. Che altro ancora? Le reazioni internazionali, per esempio ieri notte, quando giungevano le notizie dei militari che stavano prendendo il potere, che bloccavano il Bosforo, che andavano alla TV di Stato ad annunciare il colpo di Stato, il silenzio delle cancellerie internazionali. Poi dopo poco arrivano le dichiarazioni e i leader mondiali che scelgono Erdogan. L'Europa, scrive Repubblica, ha appena stretto con Erdogan un patto di ferro con l'obiettivo di fermare il flusso dei rifugiati siriani in Grecia in cambio di aiuti per 6 miliardi di euro. La Turchia è diventata un interlocutore indispensabile nella gestione dell'emergenza migratoria. Poi arriva la dichiarazione più attesa, quella del leader presidente americano Barack Obama, all'una di notte, ora italiana, rompe il silenzio durato quasi 3 ore, schierando gli Stati Uniti in difesa del governo democraticamente eletto della Turchia, così come il segretario generale della NATO Stoltenberg, che invita al pieno rispetto delle istituzioni democratiche in Turchia. E così l'Occidente ovviamente sceglie sostanzialmente da subito di non occhieggiare in nessun modo a questo colpo di Stato, che se in passato appunto con i militari ha rappresentato il tentativo di ristabilire un ordine di laicità e anche di forse paradossalmente maggiore democrazia, questa volta non era chiaro che cosa ci potesse essere dietro a questo golpe, se non l'imam, il predicatore Fatullah Gulen, o quindi una deriva ancor più islamista radicale. Non c'è tempo sostanzialmente per leggere le altre notizie, per parlare della strage di Nizza, per conoscere caratteristiche dell'attentatore, scrive il Corriere, guidava un furgone, non faceva il Ramadan, stava divorziando, era depresso, violento. Il racconto dei vicini nella casa dell'assassino, appunto, parlano di un uomo alto, asciutto, bell'aspetto, solitario, guidava il camion, non era poi quello che aveva utilizzato nel giorno della strage, ma insomma il suo lavoro era l'autotrasportatore. I legami con i parenti in Tunisia, che sono definiti degli estremisti coinvolti e anche condannati appunto come estremisti, ma per questo appunto non c'è tempo, vi rimando al giornale radio con gli aggiornamenti dalla Turchia, poi torniamo in diretta con Si può fare alle 8:20 circa più tardi.